Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati ancora nel mondo della scuola, Mirko Cavallini studio e di Daici in regia. Oggi torniamo a bocce ferme, a mente, ad animo un po' più raffreddato sul referendum di Bologna. Ne avevamo parlato un paio di settimane fa, proprio a pochi giorni, a poche ore dallo svolgimento di quel referendum, che certo è fuori dal nostro territorio regionale, ma che ha suscitato un dibattito piuttosto acceso. Cosa chiedeva questo referendum consultivo? Come ciascun cittadino avrebbe voluto destinare la quota di 1 milione di euro su 38 totali stanziati dal comune di Bologna, quelli stanziati per le scuole. Questo milione di euro doveva rimanere come era fino adesso alle scuole, anche alle scuole paritarie, oppure andare completamente come gli altri 37 alle scuole statali, alle scuole comunali. Era un referendum consultivo, appunto, di questo si era parlato. Vi avevamo proposto tutti i dettagli, anche i numeri, nella puntata di un paio di settimane fa, che potete ritrovare dalla nostra sezione podcast del sito bluradioveneto.it. Come sappiamo, il referendum si è svolto, hanno vinto con circa il 60% delle preferenze coloro che vorrebbero stanziare anche questo milione di euro a favore della scuola statale, ma il dato più importante è che l'affluenza è stata molto bassa, poco sopra il 20%, e anche questo è un dato significativo su cui riflettere. Quindi al restante 80% o non interessava la questione, oppure andava comunque bene così. È come succede anche in altri referendum abrogativi della nostra Repubblica: se non si va a votare vuol dire che si vuole che le cose rimangano come sono. Anche questa evidentemente è un'intenzione che si può leggere in questi dati, in questa partecipazione. Un dibattito che è stato molto acceso, ripreso anche da alcuni nostri settimanali diocesani nelle settimane scorse, con la possibilità, ad esempio scriveva Don Sandro Vigani su Gente Veneta, che questo referendum bolognese potesse così propagarsi come un virus anche in altre città. Già se ne è parlato effettivamente a Milano, ad esempio, che è un'altra realtà molto grossa, è la diocesi più grande del mondo, non per nulla, ma anche dalle nostre parti ci sono diocesi e territori molto popolosi, anche se sappiamo che il Veneto, dal punto di vista della presenza delle scuole paritarie, ha numeri e proporzioni molto molto diverse anche rispetto all'Emilia Romagna, dove c'è stato appunto per la città di Bologna questo referendum. Tra poco vi proporremo un'intervista esclusiva a padre Francesco Ciccimarra, che è stato in questi giorni in Veneto ed è il presidente della GIDA, l'associazione dei gestori degli istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Certamente una voce di parte, ma come siamo di parte anche noi, evidentemente, come linea editoriale. Questo essere di parte è anche basato su numeri oggettivi, che poi sono i numeri della presenza nel territorio regionale del Veneto delle scuole paritarie, e non solo di ispirazione cattolica. Poi l'abbiamo detto più volte da questi microfoni che la questione scuola va vista non dal punto di vista ideologico, ma va vista nel suo insieme, come del resto prevede la legge della Repubblica Italiana, cioè che c'è un'unica scuola pubblica con gestori diversi, siano essi lo Stato, siano essi i comuni, nei confronti dei quali c'è appunto una parità, perché una scuola comunale deve applicare dei programmi ministeriali, non può decidere da sola una scuola comunale che tipo di insegnamento fare. Quindi esistono scuole statali, esistono scuole paritarie, anche qui di diversa proprietà. Può essere un ente pubblico come il comune o una provincia, o possono essere enti di ispirazione cattolica, ecclesiale, o anche altri enti privati. La realtà è molto ampia, ma il problema appunto va considerato nel suo insieme, cioè tutto il sistema scuola, e considerando poi le tradizioni dei territori, e la nostra tradizione veneta ha appunto delle peculiarità che arrivano ben oltre il XX secolo all'indietro, cioè arriviamo addirittura al XIX secolo come nascita delle scuole scuole di comunità. Di questo parliamo tra pochissimo, un commento sul referendum di Bologna con padre Francesco Ciccimarra. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Lacrime di pioggia, il tuo ricordo mi parla, dalla mia finestra, io guardo il mondo che passa, ed ogni giorno ci sarai, ogni minuto che vorrai, ad ogni passo della vita. E quale strada sceglierai, che direzione mi consiglierai, ad ogni passo della vita. Sei solo un'ombra, io ti ho creduto e credo in te, tutto l'amore che hai per me, ridallo al cuore di tua madre, dalla tempesta, e molto presto capirai, che tutti gli anni che vivrai, cancellano i peccati suoi. Pensieri io vivrò, con le sue mani ti accarezzerò, ad ogni passo della vita. Stringila forte quando avrà paura, che c'è il mio amore che non l'abbandona, ad ogni passo della vita. Lacrime di pioggia, il tuo ricordo mi parla, dalla mia finestra, guardo il mondo che passa, lacrime di pioggia, lacrime di pioggia. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. La puntata di oggi dal mondo della scuola ritorna, come abbiamo detto in apertura, sul recente referendum consultivo di Bologna. Referendum molto discusso, anche in televisione abbiamo assistito a dibattiti molto accesi, poi c'è stata una partecipazione piuttosto blanda, un risultato che era che in sé abbastanza prevedibile, cioè il 60% ha votato per spostare 1 milione di euro e aggiungerlo ai 37 che già il comune di Bologna Bologna stanza per le scuole comunali e togliere questo milione alle scuole paritarie. Era un referendum consultivo, sappiamo che la giunta comunale già ha espresso dei pareri su questo, che nei prossimi giorni a Bologna ci saranno ulteriori incontri per valutare la situazione. Noi facciamo una valutazione generale appunto a partire da questo fatto, ma più ampia anche sulla scuola paritaria, con il presidente della GIDAE, l'Associazione dei Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica. Padre Francesco Ciccimarra, il referendum di Bologna ha avuto un esito, ha avuto un dibattito forse molto acceso, ideologicamente schierato, ma un risultato che lei commenta come? Il referendum di Bologna intanto è stato il pronunciamento di una piccola parte della popolazione bolognese, piccola parte, e una parte di questa piccola parte si è schierata a favore del non finanziamento della scuola paritaria. Dal mio punto di vista, questo ricorso ai referendum che hanno questi risultati bisognerebbe forse limitare molto il valore anche ideologico che portano avanti, perché se su 100 abitanti appena il 17% si pronuncia contro, vuol dire che tutto il resto della popolazione non è formalmente schierata. Detto questo, quindi un fatto di numeri, il problema è un problema di contenuti. Dobbiamo decidere nel nostro paese se vogliamo una scuola libera dove ogni famiglia possa mandare i figli nella scuola statale, nella scuola paritaria, nella scuola non paritaria, perché c'è anche quella, e quindi sancendo un diritto di libertà, di scelta, di educazione, nel rispetto delle coscienze di tutti. O se invece si debba fare una scelta dove tutti sono obbligati comunque ad andare a frequentare una scuola che sia ideologizzata in un certo modo. Tutto qua. C'è la possibilità, a suo parere, che l'esempio di Bologna, come è stato annunciato da qualcuno a Milano, possa prendere piede anche in altre parti d'Italia? Intanto come strumento di consultivo mi risulta che l'amministrazione di Bologna continuerà a mantenere la convenzione con le scuole paritarie, nonostante, ripeto, il pronunciamento di questa piccola parte di popolazione. Anche perché se non fosse stato consultivo non avrebbe avuto neppure il quorum per imporre certe scelte. Poi che si possano fare altri referendum in altre città d'Italia non mi meraviglio, anzi lo darei quasi per scontato. Il problema però non si sposta di una virgola, siamo sempre lì, il nostro paese deve decidere se guardare all'Europa, se guardare al mondo. E se si ha questa prospettiva, di sicuro noi siamo agli ultimi posti. Quindi è paradossale che da una parte si guarda a questi ampi orizzonti, ma quando si tratta della scuola noi siamo al di sotto dei paesi meno sviluppati. Il Veneto ha una situazione però ben diversa, con un corpo di scuole paritarie, soprattutto nella fascia per l'infanzia, molto, molto numeroso. Può essere un esempio anche per il resto d'Italia? Lei come lo vede dal suo punto di vista? Io penso che più il modello pluralista si sviluppa, più il paese acquista dignità a livello anche internazionale. Avere molte scuole paritarie che tengono degnamente il campo con la scuola statale, che pure funziona bene, devo dire, soprattutto negli ultimi anni si è sviluppata positivamente, è un qualcosa che non può che essere visto in maniera positiva. Quindi il modello Veneto io lo proporrei in tutte le regioni, perché se oggi in Italia c'è un problema a livello di scuola è che in alcune regioni la scuola paritaria funziona bene, e devo dire tra queste c'è il Veneto. In molte regioni, alludo soprattutto al centro-sud, il finanziamento della scuola paritaria a volte è un'utopia, e questo fa del nostro paese uno spaccato. Una parte guarda verso certi orizzonti, un'altra parte guarda verso altri orizzonti. Questo non mi sembra giusto. La questione finanziamento, certo, non è la primaria nel quadro generale dell'educazione, ma è importante. Ora c'è un nuovo governo, che tipo di dialogo si può aprire in vista dell'applicazione dei finanziamenti della legge 62? Ma al di là del cambio dei governi, il vero problema è che non ci sono i soldi, o almeno non ce ne sono a sufficienza per finanziare quelle molteplici attività di rilevanza sociale, come l'assistenza anche oltre alla scuola. Noi abbiamo vissuto in questi anni una progressiva riduzione dei finanziamenti. D'altra parte, le condizioni generali del Paese non ci ispirano a migliori e più forti illusioni. Tuttavia, nonostante i tagli, devo dire, la scuola paritaria potrebbe non avere contraccolpi in senso negativo se si rafforza la sua qualità, se diventa competitiva, se diventa veramente un ambiente educativo fortemente voluto dalle famiglie. Quindi se migliorerà la qualità, se migliorerà la gestione, se miglioreranno gli obiettivi, io penso che nonostante i tagli la scuola potrebbe non avere effetti negativi. Il tema della parità economica delle scuole ha un riflesso immediato sulla capacità delle famiglie di mandare i propri figli alle scuole paritarie, perché non c'è dubbio che laddove sono ridotti i finanziamenti necessariamente potrebbero aumentare le rette, e soprattutto in questa situazione di difficoltà economica del nostro paese molte famiglie potrebbero vedersi ristrette queste possibilità. Ecco, questo lascia veramente l'amaro in bocca. Per questo sarebbe opportuno che lo Stato, gli enti pubblici, prima di decidere riduzioni di finanziamenti a questa istituzione chiamata scuola, si facessero veramente un esame di coscienza e pensassero alla dignità di tutti i propri cittadini. Ringraziamo ancora padre Francesco Ciccimarra per la disponibilità. Questa intervista la troverete nel prossimo numero, quello di domenica 9 giugno, della Vita del Popolo, il settimanale della Diocesi di Treviso, e poi anche in versione video sul canale YouTube di Blu Radio Veneto. Tra poco ancora insieme per concludere questa puntata. Dal mondo della scuola. Minuti insieme per questa puntata dal mondo della scuola, la prima del mese di giugno, ma a breve con un altro paio di incontri arriveremo a concludere anche questa stagione. Ricordiamo che sul nostro sito bluradiovaneto.it, sezione podcast, c'è tutto l'archivio delle puntate, quindi si può andare a riascoltare quanto abbiamo proposto in questi mesi, parlando spesso di scuole paritarie, ma parlando anche di esperienze dei genitori, sono un altro aspetto importante, capendo gli insegnanti come lavorano, come cambiano anche le metodologie tecnologiche, qual è l'apporto appunto anche dei nuovi supporti e dei nuovi mezzi di comunicazione rispetto all'insegnamento. Abbiamo parlato anche di iniziative particolari, come è stato nella puntata scorsa, puntata dedicata a un'esperienza sulla sindone. Anzi, vi ricordo che giovedì 13 ci sarà questa chiusura appunto a San Donà di Piave, al Teatro Da Vinci, di questo progetto sulla sindone a scuola. La sindone è una realtà misteriosa messa in scena da alcuni alunni delle classi quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo. Sono tanti gli aspetti appunto di cui abbiamo parlato nel corso dell'anno e degli anni in questo spazio che ha davvero una storia molto, molto lunga alle spalle. Nelle prossime due puntate arriveremo appunto verso la conclusione con la settimana prossima Don Edmondo Lanciarotto, che è il coordinatore di questo progetto, di questo format radiofonico, il responsabile dell'ufficio scuola educazione università della Conferenza Episcopale del Triveneto, con cui faremo un bilancio non solo e non tanto di queste trasmissioni, ma di come anche dal punto di vista politico è stato affrontato il tema della scuola in generale. Sappiamo già purtroppo di molte annunciate chiusure per il prossimo anno scolastico, perché non ci sono iscrizioni, perché ci sono sempre meno soldi, perché c'è meno disponibilità. Sappiamo che sono in cantiere, le ricorderemo anche molte iniziative anche a livello nazionale, perché è stata coinvolta anche la Conferenza Episcopale Italiana su questo tema. Già dai prossimi mesi, dal prossimo autunno e anche nel corso del 2014 fino al 2015 c'è un percorso che manterrà vivo questo dibattito a livello nazionale, anche in dialogo evidentemente con gli amministratori, il governo innanzitutto, appena si riuscirà a capire la stabilità e l'orientamento appunto dei responsabili del settore istruzione e del settore economia, del tesoro, sui finanziamenti della legge 62, e poi ci sono gli amministratori regionali e comunali, ma che già conoscono molto meglio la situazione. Sappiamo che il Veneto, da questo punto di vista, ce l'ha detto anche padre Francesco Cicimarra poco fa nell'intervista, può fare da scuola e da esempio per altre regioni. E appunto con Don Edmondo la settimana prossima faremo il punto anche di questo panorama, insomma, per proiettarci già alla prossima stagione e al prossimo anno. Nell'ultima puntata, che sarà quella invece del della settimana successiva ospiteremo alcune studentesse che stanno concludendo l'anno scolastico, hanno anche alcuni esami di metà corso, perché fanno un percorso di studi particolare, per cui gli esami non sono necessariamente in quinta ma sono anche in terza e in quarta, e loro stesse ci racconteranno alcune esperienze all'interno della scuola ma anche parascolastiche, esperienze di volontariato alle quali si sono avvicinate proprio anche dall'interno delle aule scolastiche, nel rapporto con i professori, con gli insegnanti, con il mondo delle associazioni e del volontariato che molto spesso collabora appunto con le scuole. Avremo ospiti appunto fra due settimane in quella che sarà l'ultima puntata di questa stagione. Intanto vi rilanciamo l'appuntamento sul podcast, sezione del nostro sito bluradioveneto.it, per riascoltare questa e le precedenti puntate di questa trasmissione. Dai di Daici in regia, Mirko Cavallini studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento con Blu Radio Veneto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.